Credo che qualcosa ora non vada. Non è certo il vino che ho bevuto ieri a farmi sentire così male. Metto un vecchio disco dei Pink Floyd ed inizio a ballare ed inizio a volare. Gira tutta la stanza intorno a me, non so più dove sono, forse su Marte arriverò. E ancora gira tutto il mondo qui con me, forse domani all'improvviso starò meglio e tornerò in me. Tutte queste strade, ma non mio.